Sì, aspetta che abbasso il volume del ricevitore. Ui, è tutta la sera che chiamo disperatamente sulla monitor nostra. Tu, ma di roba ho fatto, Antalì? Ma di roba ho fatto? Avevo quell'antennino. Allora, sono andato a Piazzale Segni, in area libera le stazionarie sono sempre due, ma funziona benissimo. Guarda, io ero nel parcheggio di Eurospin, no? Alla Calo Felice, parcheggio di Eurospin, a Gio Maria arrivavo benissimo, bene, certo un po' basso il segnale, ma perfetto, senza fruscio. È un bijou, Natali, fai bene a prendertelo perché è molto discreto. E ho fatto un bel di commissioni, sono andato da, quindi da Eurospin, dagli ABC, sono andato da Lidl, un bel giretto ho fatto. Ho capito, Marco, cosa vuoi? Io ti ho risposto, sei tu quello che chiamavi, ma non mi hai risposto tu. Allora, Natali, io ho chiamato prima di partire da Lidl e ho sentito un segnale a Santiago Zero, senza radio. Sentivo solo lo squelch che si apriva, facevo... E sicuramente di tu, però vabbè, c'è un limite, tu sei un po' chiuso lì. E sicuramente di tu, dai. Però Claudio forse era impegnato in commissioni, non l'ho sentito Claudio, niente. Ho pianto più volte, prima Piazzale Segni, prima, insomma, vabbè, dai. Vuol dire che era indaffarato, ok? Evidentemente sì. Poi un vicino mi ha avvertito che il cavo dell'antenna spostato dal vento, siccome non era ancorato affatto, si era messo su davanti alle finestre degli stanzini dalla parte interna. Allora l'ho messo a lato, l'ho fatto calare in verticale e l'ho fissato bene con nastro, come si chiama, nastro quello americano, dai. Adesso già non si muove più, tutto bene, tutto bene. Ho fatto una spesuccia, ho pigliato anche la sabbia dei gatti e quella la pigliano da Eurospin, purtroppo non ce l'hanno da lì, hanno quella sabbia schifosa, grigia, che è baricemento, quando si consolida con la pipì sembra cemento, non riesci nemmeno a pulire la vaschetta, la lettiera lì. E anche io la prendo da coso, da quello di Viale Porto Torres, c'è il parcheggio, c'è tutto lì, quindi lo prendo lì, da cosa? Da Eurospin. Ehi, so che non mi piace, da Eurospin, tu la rossa prendi, quella con la confezione bianca col gatto. Ehi, cioè di tutti i tipi io piglio la rossa, quella che mi hai detto tu, e mia moglie ha detto che è di lusso. Ehi, sì, alla fine è la migliore perché fa un po' di polvere quando la metti, la verità, fa del pulviscolo proprio impalpabile che ti va nel naso, lo sento, quindi anche un po', però quando si calma il pulviscolo è una bella sabbia. Invece quella di Lido, quella grigia, è uno schifo, è veramente uno schifo. E cosa ti vado a raccontare? Quindi ho fatto tutto quel percorso, sono stato prima a Piazzale Segni, no, a controllare, poi sono stato un po' lì a guardare il panorama, poi Eurospin, sabbia di gatti, poi sono andato, ho sceso nella via di Lidl, ho parcheggiato prima di Lidl perché sono andato al GBC, sono riuscito a buscare almeno uno spinotto di quelli che mi mancavano, poi Lidl, ho preso queste, sai, un panettone in busta, un pandoro in busta, perché tanto mi, con la confezione ti costa quasi un euro in più, solo per la scatola di cartone, siccome io non mi devo mangiare il cartone, ho preso il pandoro e il panettone in busta, e quindi lo usiamo noi per adesso per la colazione, anziché mangiare merendina, colazione, cornetti, ci mangiamo una bella fetta di pandoro o di panettone, è di lusso, dai. Voglio vedere quando vieni che cannibalizziamo il coso, quel case. Cazzo, se no finisce che me lo ordino da internet. Sai cos'è? Tu devi sapere le dimensioni della scheda madre. Le dimensioni della scheda madre, perché, caspita, non sono tutti uguali. Io credevo, invece no, non sono tutti uguali. Bene. quindi un bel giro ho fatto, mi è piaciuto uscire, ho chiesto a mamma se volevo uscire, ma come sempre ha detto no, vero mamma? Dai, usciamo, tanto sei sempre in macchina, non è che ti stanchi, non è voluto uscire. Lei piace stare attaccata alla TV con questi documentari di Marco Polo, che sono anche belli, ma alla fine ti invalani, ecco. Quindi quell'antennino in città è di lusso, in città è di lusso. Allora, quindi quello che ho è quello con l'attacco SMA femmina, non dopo il capetto. Quello con l'attacco SMA maschio sta tardando ad arrivare, nonostante fosse spedito, non so se dalla Germania, cioè arriva in Cina, dalla Cina arriva alla Germania, dalla Germania a me. Però adesso che le poste siano un po' in acqua alta, perché doveva arrivare, caspita, verso il 30, l'1 e sta tardando ad arrivare, però arriverà. Poi per gli altri si vedranno lì, non lo so nemmeno se prendere quello da 30 centimetri, perché tanti antenne sono messo bene, Natalia, a meno che non me lo richieda tu, però poi bisogna vedere se risuonano, se non risuonano. Oh, comunque due stazionari, te l'ho detto, per il portatile non è niente, te lo ribadisco, le antennine di serie funzionano con 3, 4, anche 5 stazionari, quindi problemi non ce n'è. Poi arrivavo bene da Gio Maria, che è dalla parte opposta della città, quindi problemi non ce n'è. Volevo fare un cuticci per Pomponio. Attenzione Antonello Pomponio, ci sei? No, non lo sto sentendo peraltro in questi giorni. Che l'altro giorno dovevamo andare al CAF con Antonello Pomponio e dovevamo andare alle 4, 4 e mezza, no? Io un po' aspettando, dice l'uno, l'una e mezza, ancora è presto. Ancora è presto, le due e mezza, tre, e poi dopo le tre non mi ricordo niente perché mi sono addormentato e quindi mi si è bruciata la serata, dai. Però ci voglio andare al più presto a chiedere informazioni, per fare Natalì questo foglio ISE, che non lo so se mi torna utile, dice che serve per il lavoro, per eventuali lavori futuri, ti risulta? Sì, però lo devi fare a gennaio. Allora, cosa c'hai intestato tu? Ma io personalmente niente, c'ho lo scooter. Lo devi dichiarare, se c'hai lo scooter, se c'hai carte di credito, tutte queste cose qui, e se c'hai le carte di credito devi andare alla banca e farti fare l'adiacenza. Poi con quello vai al CAF e ti fai fare il modello ISE. Al limite ci andiamo assieme, perché anch'io lo dovrò fare così. Vedi com'è, è una cazzata, se lo fa il CAF non lo devi fare tu. Lo so, però sai, al CAF devi chiedere che documenti devi portare, tipo che ne so, stato di famiglia, certificato di residenza, quelle cose lì, no? Devo chiedere tutti i documenti da fare, e poi me lo fanno loro, mi ha detto Antonello. Però a me non mi interessa avere, fare intralazzi lonfi, far figurare che risiede in un altro posto per avere soldi, quello non mi interessa. A me serve solo per eventuali lavori futuri, così mi ha detto Antonello. Serve per, lo devi depositare quando ce l'hai una copia all'ufficio di collocamento, così mi ha detto lui. Ehi a tutti, quando lo ritiri che ci vogliono 15 giorni a arrivarti, una volta che ti è arrivato ti fa la fotocopia del foglio dove è attesta che tu non hai nessun reddito praticamente, e allora ti fa le fotocopie di quello che te lo chiede glielo dai, perché se no sono 25 punti in meno se non presenti l'ISE, hai capito? E poi non puoi fare niente di falso, perché passa prima all'INPS, poi all'Agenzia delle Entrate, poi torna all'INPS e poi lo mandano al CAF, hai capito com'è il discorso? Non puoi fare più nessun intrallazzo, va con l'ISE. Vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare avanti. Come mai non c'è nessuno oggi? Ma sono quasi le 7, vabbè. Sì, Natalì, ma come dicevo io, a me non interessa fare nemmeno intrallazzi, come dice Pomponio, di figurare di abitare da un'altra parte. Cioè fare la residenza da una parte, però poi alla fine abitare, non mi interessano a me le cose illegali, a me interessa solo per se necessario per eventuali lavori, punto. Ok, però mi ha detto di farlo, Antonello mi ha detto di farlo entro dicembre, non so il perché. Ma vai, devi ammazzarti, a gennaio lo devi fare, così ti risulta quello giusto di quest'anno, perché l'anno dietro è che risulta, non hai capito? A gennaio lo devi fare. A gennaio? Ho capito. Comunque, Natalia, una cosa, avendo una carta di credito, no? Avendo la carta di credito, si suppone che uno abbia un conto bancario. Io in realtà non ho un conto bancario, ho una carta di precredito prepagata che in realtà contiene zero. Contiene zero. Io solo ogni tanto ne metto 30 euro, 50 euro per comprare oggetti, ma non credo che valga. Comunque, vi specifico tutto, che è una prepagata che è vuota. Non ho un conto corrente io, ci mancherebbe. No, allora non la devi dichiarare se non hai conto corrente, capito? Io i libretti li devo dichiarare, quei libretti che ho di risparmio, lì se li devo dichiarare fai forza. Ma la carta non l'ho dichiarata assolutamente. Ah, ok, aspetta che abbasso un po' il ricevitore. Ecco, da un filino di audio. Ok Natale, ok, da. Purtroppo mi sono addormentato quando era l'altro ieri, o ieri, non mi ricordo, sì, proprio ho detto adesso fra un po' vado, ancora non è ora e poi mi sono dormito. Beh, vabbè. E beh, madre, saluta Natalino. Natalino, un bacione! Un bacione ha detto, Grazie altrettanto! Ehi, Oia, un bacione, mica è gelosa poi, concettami. Gelosa. E poi se la piglia con te, capito? Accoltella te. Allora al massimo metti una pugnalata, non lo so. Eia. Bene Natalia, sono in uno stato mi piace uscire, essere attivo, in realtà mi piace. Poi prima di questo te l'ho detto, prima di uscire ci ho salito in terrazzo, ho nastrato il cavo nei punti di appoggio dove, perché prima era proprio libero, il vento lo spostava, ma mi sono trovato addirittura il cavo che scende da su del baracchino sopra la parabola, tra l'illuminatore e la parabola, e poteva fare interferenze. Adesso non si muove più, così abbiamo finito di soffrire. No, ma poi se si muove te lo consuma lo fregamento, capitola, non si deve muovere. Sì, sai perché? Io avevo messo un pezzo di, sai il tubo di acqua, no? Che c'ha quei rinforzi, quella specie di rinforzi, no? E gli avevo nastrato i lati, però qualcuno l'ha toccato e me l'ha fatto. Infatti adesso nel punto dove tocca l'angolo del parapetto, no? Ci ho fatto una bella nastrata, proprio ci ho fatto un malloppo di nastro americano, in modo che anche se dovesse appena appena sfregare c'è la protezione, capito? E hai fatto bene, perché se no si lavora il cavo, mamma mia, facciamo a 50 metri il cavo, gli attisci rugono. Anzi, ti dirò di più, che se avessi avuto oggi tra le mani un pezzo di pompa, bello grossetto, magari tagliata di lungo, no? L'avrei messa lì e l'avrei completamente nastrata. E sarebbe stato anche meglio, però gli ho fatto un bel malloppo, dai, non dovrebbe avere problemi. E infatti, e se non la buschi, allora cosa fai? La tagli in mezzo, la tagli da una parte, poi gliela nastri e così non si muove. Capito? E così non può mai sfregare il cavo sul parapetto. Eia. Comunque guarda, per come l'ho fissata adesso non deve sfregare, perché prima proprio ciondolava, perché qualcuno, ripeto, me l'ha toccata, adesso non ciondola comunque. Poi ho controllato l'antenna, ho fatto anche la foto, non manca niente, i radiali sono a posto, tutte le guarnizioni dei giunti sembrano perfette. Non mancano nemmeno i tappini dei radiali, quei tappini di gomma. Ma sono contento dopo tutto di questa antenna, perché basta lasciarla bassa e fa il suo sporco lavoro. La verità, sono soddisfatto. Certo, 50 metri di cavo sono tanti e danno sempre un po' di perdita, però pazienza, mai si veda, è importante modulare. Infatti, sì, che ti chiama per se sto uscendo. No, aspetta, che metto il canale monitor con ricevitore. Aspetta, Parla un po' tu, parla lungo. Aspetta. aspetta che levo il TMR. Eccolo, ecco. Sì, sì, arrivi. Adesso c'ho l'antenna esterna, c'ho il ricevitore solo adesso, c'è il ricevitore attaccato e l'antenna di fuori. E va bene, perché sono, forse non mi ha sentito perché ero anche a bassa potenza, mi. Ah, beh, se eri a bassa potenza può essere, può essere. Io mi volevo curare ogni tanto che esco fuori a Platamona, mi volevo mettere come ricevitore lo Jesus 2008 senza microfono, solo che è troppo sporco, mi sa che secondo me si riconosce che non è un ricevitore solo. Mi pare di sì. Poi si è messa questa, ma quella è una perdita grossa, costava che poi non è un 8008, è un 8009. No, mi ricordo 329, 330, 340, una cosa del genere. Uno di quei mau, pigliati, cata, se vuoi te lo do io. E con quello vai dovunque, se c'è l'antenna esterna. No, ma quelli già ce li ho, ne ho due. UV5R Plus e poi il Baofengo UVB5. Quindi per quello sono a posto. Chi è? Tu sei? No, avanti il fischio, il tono 1750. Aspetta che devo bloccare. Cazzo, con queste portanti. Ecco, ecco, adesso ho messo la monitor fissa, dai. Ho messo la monitor fissa, parla un po'. Sì, sì, a posto, di lusso. Eia. Guarda, devi premere la portante e il tastino di sopra. Premi la portante e il tastino di sopra assieme. Tu sei? Sì, sì, funziona. Però c'è un altro che ha fatto il fischio. Chi è? Avanti. Vabbè, io sto parlando in 27, però. L'ho abituato. Eia. Claudio, ma sei tornato tardi oggi? Che stasera ero in giro, ho chiamato più volte. Ah, per quello, vabbè. Mi sono fatto un bel giro, Piazza Le Segne, bar. Sono andato, nota lì, oltre, ci ho controllato le stazionarie, sono andato anche al bar a pigliarmi un come si chiama quello che è? Un marocchino mio, marocchino. Buono. Con il resto dei negozi, dai. Anche a GBC. A me? Franco, che. Boh, stranamente da me non arriva. Oh, Iulia. È arrivato. Un po' bassino, sai, perché il ricevitore è meno sensibile. Comunque anche il ricevitore Uniden a me piace, quello da Palmo. No, Natali, quindi sono a posto tra ricevitori e tutto. È che era bello mettere quello. Ah, quando arrivi nella zona X, clicca, attacchi. Attacchi il microfono e puoi fare ciucu ciucu l'alta potenza. Aspetta un attimo, adesso mi sento Franco. Ciao. No, Franco oggi non arrivava, è arrivato un istante e poi niente più. No, dicevo, ero a Piazza Le Segne a controllare stazionare di quell'antennino a 14 cm, non so se ti ho mandato la foto. Piccolino, risulta un quarto d'onda in UHF. C'ha due di stazionarie in TMR, ma problema non ce n'è. Nel tanto gli antennini, te l'ho detto, no? Uno ha controllato tutti gli antennini di portatili professionali e Baofeng e lavorano con 3, 4 o 5 stazionarie, gli antennini incorporati dei portatili, quindi problema non ce n'è. Sono arrivato a Gio Maria dal parcheggio di Eurospin a Carbonazzi, alla Caro Felice, sono arrivato da Gio Maria come niente, quindi già va bene. È carino, mi costa una miseria, è come avere l'antennino fuori dal portatile, però è veicolare quello, capito? Costa poco, vale quello che costa, dai. È importante che funzioni. Pieno di scatole in mezzo, poi dietro il bancone, dall'altra parte, non di fronte, di lato è un ordinaggio. Sono riuscito a trovare un ennesimo adattatore che mi serviva, gli altri però adesso mi ricercherà perché prendono un bel tempo. Sì, poi quindi Eurospin, cioè Piazza Le Segne, bar, Eurospin, G UBC e infine Lidl. Mi sono fatto un bel giretto, ogni tanto chiamavo sulla monitor, ma non. Solo la Natalino c'era. No, io in giro, poi no, io voglio andare. C'è sempre mal di gola e quindi no, non ci sono mai. Com'è Natalino? Sì, che dice? A me, sì. Oh Franco, oh. Parla Natalino, parla. Natalino, parla sopra. Niente, non mi capisce. Attenzione Pomponi, oggi c'è l'ascolto. Un qualche giorno che non entra. Speriamo vada tutto bene. Va bene Natalino, riprendi qua, dai, tanto Franco. Non ho capito se ti sento Franco. Manco io. Capito. Comunque bisogna stare occhio a queste antenne lunghe per i portatili. Bau bau. Dico perché quando tu hai un Bau Bau X, no? X, un modello X, con l'antenna originale va bene, come metti antenne lunghe tipo Nagoya, antenne sempre da portatile, perde di ricezione, non lo so, no? L'antennino migliore per ogni Bau Bau è l'antennino originale. Questo l'hanno sperimentato tutti nel forum, inutile mettere antenne lunghe, perché può peggiorare persino la situazione. E io gliel'appoggio a chi l'ha detto. Io l'ho provato e funziona bene. Adesso non ho quello lì, hai detto tu. Intanto. Eia. Comunque i tuoi Bau hanno una bella antenna di serie, è una Sine Sonic, è discretamente lunga, una bella antenna, cioè, me lo stavo corteggiando, lo sai, però poi faccio cioè, la follia di prenderla così me ne trovo tre, no, devo limitare le spese. Hai fatto bene. Oh signore, guarda se domani vieni, che così in base al case vedo che scheda ci sta, se no non posso ordinarmela. Ehi, guarda, se potessi venire, porca miseria, senza muovere la macchina, solo che il case pesa, e lì dove parcheggio? Che non scenda col tram, proprio giusto per portarmi il case appresso. Mi è arrivata la pappa, vi devo lasciare. Ti lascio con Claudio, dai. Va, ci sentiamo alle pruse. O più tardi se ci sei. Ehi, già sono qua, sto ascoltando. Sto ascoltando sia su che qua, ok? Già rientro sul dopo, dai. Ok, ciao. Ok. Te l'ho detto che ci vuole l'asino della crucca. 110, c'è qualcuno su 10, eh? Mica c'è Claudio e Natalino. Ah, ciao Marco, ho chiamato, non ha risposto nessuno. Non io rimango in ascolto, c'è un di loro che ho voglia di parlare. Ciao Robe. Dillo a me, 15 giorni sono stato io, ho ancora qualche postumo. Tutte le mattine un po' di miele a caldo, la notte lo stesso, e tu un po' ti aiuta. Sto prendendo anche l'antibiotico perché c'ho le placche, quindi è un casino. Cioè, quando non fa bene effetto non fa. Sembra che non ascolto ragazzi. Ci sentiamo. Ciao Roberto. Ehi, auguri di guarigione, ecco. Vediamo che è rimasto, Natali ci sei. Ehi, c'era Marco, cosa volevi ma? Ho detto che Claudio c'ha le placche arteriosclerotiche. Tua sorella c'ha le placche, lo dico io. Ah, non rispondi, fa uomale. Aspetta. Natali. Ehi, dimmi Roberto. Hai ragione su cui va bene, non risponde nessuno, ho chiamato. Io sono in ascolto, entro più tardi che sto facendo cosa qua col computer. Anche Marco sta mangiando, quindi quando entra Marco entro anche io dopo, là. Vabbè, se ci sarò, comunque io ti ho già acceso, se c'è qualcuno nel frattempo, adesso faccio un'altra chiamata qua sul 10, se qualcuno ha necessità di parlare o di rispondere, cambio il mic. Oh, vabbè, arrivederci, ci sentiamo dopo. No, mi più parlo più mi fa male la gola, capito? Sono quelle infiammazioni, insomma, quelle placchette che si mettono. Adesso vediamo se si abbassano un po'. Che mi raschia un bel, capito, quando metto a parlare. Sono in ascolto, dai, al limite ci sentiamo dopo. Ok, non ti preoccupare, riservati, dai. Ok. Mi stavo strozzando, non in quel senso lì, ma mi si è bloccato il cibo alla bocca del stomaco e stavo bevendo acqua. Un dolore, ho praticamente rigettato l'acqua. Adesso mi sembra che sia sceso, che sia tutto a posto, ma all'anima ogni volta così mi fa. Ma quel computer che dobbiamo smembrare, cos'è che c'ha in effetti? Allora, hard disk andato, no? Però loro in via Buca dicevano che mettevano un altro hard disk, non funzionava, ciccia. Boh, o non avevano voglia, perché sai, loro hanno interesse a vendertelo nuovo, no? A aggiustarne un pezzolino. Vabbè, me la sono riportato a casa, però mi vorrei accaparrare la RAM e la scheda video, quelle mi servono. Al limite, se non lo vuoi, mi prendo anche il lettore floppy, perché io penso che avevo addirittura un lettore floppy comprato in via Bucari, sigillato ancora, da installare in computer futuri. Perché io ho vari floppy, no? Vari floppy con varie cose. Solo che sono tanti, no? Siccome è lento a leggere tutto il contenuto, a quando a traslare tutti in un CD o nella disk, ci avete un bel, allora preferisco avere un lettore floppy. Quando devo leggerne uno lo leggo, capito? Sì, ho capito. Ma se gli mettiamo un hard disk di quelli che io avevo, se funziona ti metto il sistema operativo e non lo smembri. Oh, Natalina, non lo so, a me interessa mettere a posto quello che ho sul tavolo, il computer fisso che ho sul tavolo, che probabilmente avrà problemi solo di scheda video. Se riesco a mettere a posto quello è una mano dal cielo per me. Posso anche fare acquisizioni video come facevo una volta. Infatti, cosa ci mettiamo? L'abrimo. E se non vengo io lì, vediamo un po' la situazione. Per non muoversi più con il computer. E così vediamo un po', mi porto l'hard disk e lo sai che funzioni quello che hai tu, quello che dobbiamo smembrare. Io. Comunque, ti ho detto, a me solo scheda video. Va, aspetta. Porco Giuda. Me ne sto scendendo il resto del dente, aspetta. Oh, Giulia. Ecco l'accesso. Ah, Roberto, ci sei ancora tu? No, non sono Roberto, sono un altro. Questo è Vittorio, Ciao. Sto acceso per il momento, dico, chi c'è qua? Aspetta, devo riuscire a mangiare. Sta ballando l'ultimo pezzettino di dente verticale che c'è. Che scocciatura, guarda. Perché mi sta tagliando anche là il labbro. A scuola adesso piglio la tenaglia, mi ripoco tutto, Natalia. Attento. Poganino. Natalia, come va? Sì. Come i poveri vecchi. Già 60 anni ho compiuto, mi agosto. Bobo, sto diventando vecchio, ga. Vecchio, perché vecchio? Non sei mai vecchio. Vecchio è quando uno non può far nulla. Visto che parli, ho visto che sei in radio, quindi non sei vecchio. Vabbè, diversamente giovane, va. Marco è magari un po' più giovane. Quello sì. Però sono molto... molto pantofolaio, me. Sto diventando vecchio dentro, capito? Scusate se mastico, ma quasi una fame. mi è uscito il dente, pezzettino, ho tirato e mi è uscito, finalmente. Vuol dire che quando avrò i soldi me lo metterò nuovo il dente. Come fanno i dentisti? Cosa fanno da... Buccano, mettono la sede della vite e poi lo avvitano il dente, usci che? All'osso te lo avvitano. Ehi, ma sapevo che all'osso ci voleva una base dove avvitare il dente. Mettono una specie di filettatura, capito? E poi il dente alla vite lo avvitano. E comunque quanto costerà un dente? 1000 euro? Un dente fatto così è innesto? Non lo so, un bedi di nacuccia. Fisso, ma costa un sacco di soldi. Ti mettono questa vite e poi avvitano sopra quella vite il dente. Ehi, vabbè, quando potrò me lo metterò, adesso... Grazie, che brutto, mamma mia. Vabbè, dai, vi lascio, che finisco di mangiare, dai. Ehi, magna, magna. Se no poi non cresci. E poi fino a quando non ci siamo presentisti. E allora, Vittu, cosa mi dici? Niente, volevo dirti. La situazione che ha preso da lì. Un turno e migliorino ne ha avuto per quanto riguarda il lavoratore. Oh, negativo. Anzi, mi pare che sia abito in cattoria. Come si chiamano fissi, come ha detto quelli che erano fissi, dice che non chiamano più a nessuno, che hanno dato tutto in appalto, capito? A quelli della Mondezza, faremo bene la capita a capo, a chi se non i burini. Per carità, ma voglio dire, una pensioncina te la stanno dando almeno. Quella di invalidità sto pigliando. E cosa vuol dire? Due cizi so. Si mi raga nei buchi. Purtroppo stanno stringendo. Devi bersagliare San Camillo, lì sono i marzioni, sono lì che hanno le pensioni. Oh signore, dove andremo a finire, gatta, Vittù? Male, perché purtroppo chi governa, ma anche l'uomo che dice le strutture, ha paura di avventurarsi a fare, a dare queste autorizzazioni, queste pensioncine. C'è gente che la mette veramente, gente che non può neanche andare a lavorare, ebbene, questa è costretta a vivere alle spalle di altri, perché non gli danno una pensioncina e non riescono a valutare il danno che ha fisico perché non può andare a lavorare. È una vergogna, è una vergogna, Vittù. Ecco, si capisce, purtroppo siamo succubi di questi personaggi, ma io dico questo, vabbè, i medici che sono preposti all'INPS, quelli che ce l'operano a fare questi esami, perché non controllano bene le carte? Se ne fregano, guardano così, no, che lì che può andare a lavorare. Si immagina che non cammino, come faccio io a camminare a una gamba? Ma non vedete che non si può lavorare qui? Non ne volevano dare a mamma di accompagnamento che era allettata. Ah, non so perché gliel'ha dato il medico di coso del tribunale, perché era cieca, non si era accorto manco che era cieca. Ma che cazzo di medico battolo così? Boh. Oh, è gettaglia, purtroppo, loro tirano, cercano di stringere. È inutile restringere, io ho un cognato che ha messo malissimo, ma proprio male. Già la gamba è tutta quanta fratturata, come si chiama, ha avuto certi interventi. Beh, questo non può lavorare e non gli vogliono dare una pensione di invalidità. Ma almeno dagli il mio, ho visto come fa, è campato dalla famiglia, ma non si può così. Ma è possibile che un medico non si accorge che uno è invalido? Sì, è un macello, è un macello. Il giorno che si ribella la popolazione, vedrà che li fucilano tutti sulla pubblica piazza questa gente. A chi vuole tutti voi? Magari, faremo quel discorso, armiamoci e partiamo. Mi sa che sarà l'unica cosa che succederà qua. Qui succede la guerra civile veramente, perché la gente ne ha le balle piene di questa gente. Se li stiamo sopportando, però intanto la sopportazione sta reggendo ancora. Ci rivediamo veramente, loro continueranno, ti mettono una tassa e te la devi pagare, c'è capito, cosa gliene frega se tu ne hai o no? Ti importa che tu vai avanti, voi, che la paghi. che la buona fortuna. Vabbè Vittorio, va, ci sentiamo alle prossime, che qua mia moglie non mi sta sempre parlando e non capisco né a te né a lei. Vabbè, dai, io l'ho acceso a mantenere tutte le persone che c'è, non è più in particolare. Ah, no, chiudo anch'io perché mi hanno chiamato, dai. Saluto, non so se chiamarlo ancora, poi, non so se c'era qualcun altro. Lo saluto comunque, non è chiaro. Buon proseguimento, dai, ciao. Ciao Vittorio, alle prossime, dai, fatti sentire. Ciao Vittorio. Nathalie, puniscila, ricordati la pompa. Avvivami, c'avevo un nervo di bue qua ma non riesco a trovarlo, vedete se me l'ha buttato via, sai, la frusti. Mamma mia questa pasta però. Ma ci ha mandato un piano, un lavamano di pasta mi ha dato. Cavolo! Io gli ho detto 50 grammi di pasta secca e poi quando è bollita diventa il doppio di peggio per via dell'acqua inglobata, no? Lui ce ne mette 100 a testa da secca e diventano 200 grammi quando è bollita, c'è un piatto enorme, non ce la faccio, non ce la faccio a mangiare tutto. Roba la chiudi, vabbè, e cosa vuoi fare Marco? Oggi è un mortorio, Claudio non sarà attente, manco capi dolce. Ne Gianni doppio zoom, forse è di sera Gianni, quindi non è entrato per quello. Ah, gli avranno cambiato il turno, può darsemi. Ehi Natalia, se proprio non riesci a parlare, già sentiamo domani quando capita. Comunque mi organizzerò perché so bene il tuo computer. È lì da anni, caspita, nel corridoio lì. Devo fare qualcosa, sono molto mandrone io, capito? Dico, domani, c'è danni. Ma bisogna controllare anche quello fisso che hai tu. Bisogna prendere un hard disk e accenderla, vedere cosa succede. Boh, quello di Via Bucca ha detto che avrebbe messo un hard disk nuovo e che gli era andato in cortocircuito, forse per colpa della scheda madre, ma io non vi credo. Ehi vabbè Marco, anche smontato fuori mi funziona l'hard disk. Se si mette in moto il computer e non ti dà errore, allora facciamo, lo formattiamo e mettiamo Windows 7. E com'è Windows 7? Bello? Rispetto al 10? Sì, sicuramente sì. È bello sì, non lo conosci Windows 7. Il 10 se vuoi te lo metto, non c'è problema. Poi togliamo la RAM da quello, come si chiama? Da quello che devi dare a me, quel case che devi dare a me, e ce la schiaffiamo lì. E così potenziamo pure la RAM. Se vuoi 10 ti metto 10, se vuoi 7 ti pongo 7. No, l'hardware non ce la fa. Scusa, Tarima. Dicevo, l'hardware non ce la fa. Non basta comunque la RAM, non basta il processore, non basta nulla. Quelli sono dei baracchini. Sono computer da XP. Forse il 7, forse, se li metti RAM doppia, forse riesce a farlo girare, chi lo sa. Ehi, a 32 bit lo mettiamo. Cosa c'hai tu, XP lì? E se non li mettiamo XP, se vuoi XP, io già ce l'ho. Sì, ce l'ho anch'io. E ho proprio il disco di installazione. Mi hanno dato il disco di installazione. Pagato, giustamente, via Bucari. C'ho il numero di registrazione, tutto. Solo che se lo vai a mettere XP non credo più che ti diano i service pack per aggiornarti. Ti ricordi i service pack 1, 2, 3? Non credo che la Windows li dia più. E se per quello non c'è più neanche Windows 7, però gli aggiornamenti li stavano dando. Ho visto un bel computer, 799 euro, minchia. Ma cosa non aveva? 8 di RAM, scheda video da sogno. Una cosa che ho visto, vabbè, quello un po' così mi ha lasciato, aveva il disco SSD, non a disc, proprio un SSD da 512 giga. Che dice che sono più veloci mi della disc. Solo che sai, ancora sono sperimentali, ma era un razzo quel computer. Non mi ricordo però che la marca, se era Acer, Razz o cos'era. Cos'è dual core quello che hai tu, o un core solo, con un processore solo? Nathalie, io ti dico solo che quello da smantellare ha un processore Duron 1300. È che io ce la tela madre, sta che sta andando a fanculo, se no sarebbe ridato il mio. Ti avrei dato, questo qui è un dual core. 4 giga di RAM, 64 bit, funziona Windows 10, molto veloce. E che c'ha le schede saldate, perché erano saldate, erano grandi. Oh, saldate. Sì, questi che io sono obsoleti, uno del 2003, uno del 2004. Siccome si era fermato uno, avevo deciso di farmene uno nuovo, no? Quindi quello da smantellare, ma chi ce l'ha fa? È meglio, lo dai. Scusate. Dicevo, è proprio il Duron 1300, me lo ricordo proprio, ma sono cose altro che dual core, quad core, quello è un core e basta. Però la RAM se si può mettere l'altro, e la scheda video soprattutto, se si può mettere l'altro è fatta. Sperando che sia solo la scheda video, quella difettosa. E i driver come li trovo però? Come faccio a trovare i driver di una scheda video vecchia di 12 anni? O anche di più? Boh. Su internet. Metti il nome della scheda e ti danno i driver. Io non faccio così. Mi vuole morto, mamma. Mi ha dato pure insalata, già mi metto i scendiloci. Sì, grazie. Cazzo, mi volevo comprare quel lì digitale. Che cosa? Quel? Quel digitale. È da settimane che non entriamo, forse da un mese che non entriamo più nei digitali. Non ne vale la pena, forse, anzi te lo posso dire quasi con certezza, tornando indietro non avrei preso quel digitale. Tanto noi non dobbiamo dire niente di vietato, non dobbiamo niente dire niente di che. Era per provarlo e boh. Ma non ci riguarda, ci avevamo parlato 3-4 volte, forse 5 da quando c'era, poi non abbiamo più parlato da roba di un mese e oltre. Non ne vale la pena, non ne vale la pena. Assolutamente, anzi mi sa che se posso me lo rivendo pure. Solo che poi chi ce l'ha con chi parla? Col muro. Infatti, se non è che lo dai a qualcuno che lo usa, tipo qualche radioamatore. Mette le frequenze di loro e via. Ah beh. Oh, sto ruminando, sembra una pecora. La verdura sto mangiando, mi dà un'insalata. Io ho fatto la pasta asciutta con i pomodori freschi oggi. No, oggi dietro mia richiesta mamma ha fatto la pasta al burro. Era tanto che ne avevo voglia. Semplice, semplice, burro e parmigiano. Buonissima, però troppa me ne ha dato, troppa. Basta mangiarne di meno, se tu non ce la fai, non ce la fai, c'è poco da fare. Quello è vero. Però c'è una bilancia così bella, digitale, per la cucina, e non la usa. Per pesare la pasta, non la usa. Anzi, adesso me la pulisco bene e me la uso io. Quando cucino io, me la uso io. prima le compra le cose e poi le lascia marcire così. Bene, bene. Mia moglie c'ha Windows 7 e io c'ho più 10. C'è anche un disco che c'è Windows 7 dentro. Ma hanno fatto Windows 7, poi che cosa? L'8 e poi il 10? Il 9 non esiste, no? No, l'8.1, ma è una schifezza, è meglio il 10. Velocissimo, beh. Certo che ho detto, per comprare, una volta mia zia mi voleva finanziare in parte il computer, no? Mettere la metà almeno. Solo che io volevo pigliare il computer a 4,99, o anche meno. Cioè, io una cosa dico, se qui è un portatile, lo prendo molto performante, almeno da 6,99, quando avrò i soldi. Perché se no passa subito, cioè se pigli quelli con poca RAM, con poco core, non li puoi aggiornare, invece se prendi un mostro molto performante, a parte che è un missile, magari se passa un sistema operativo più in su, lo supporta lo stesso, capite, è ancora abbastanza performante. Sì, ma non ne avrei preso a portatile, non mi sarei assemblato uno fisso, così ci puoi mettere le mani dentro. Il portatile è un casino, caro Marco. Lo so. Per esempio, in quello fisso, quello che c'è sul tavolo, ci avevo fatto mettere, non io, ma in via Bucari, no. Cioè, lo compro lì e te lo mettono loro, no, allo stesso prezzo. La scheda di acquisizione video, naturalmente era una cosa, cioè proprio segnale audio-video, cioè segnale video e poi... Camera destra e sinistra, però mi permetteva già con la telecamera di trasformare le videocassette in file DVX per metterle su YouTube, per dire, no? Invece adesso ce l'ho fermo e non posso farlo, poi c'era nero, c'era un bei programmi per decrittare il CDVD, CD, tutto, per levare le protezioni lì, cazzo ogni figata, tipo DVD Fab, si toglieva tutte le protezioni del film, proprio di pirata. Te credo. Io vorrei fare dei filmati e metterli su YouTube, però non so come fare, boh. Se tu lo sai me lo devi spiegare. Tanto i filmati, ne ho due macchine fotografiche che fanno i filmati. Eia, per esempio prima i filmati li facevo con le videocamere e poi li trasformavo in formato digitale per il computer, no? Adesso invece, visto che la scheda acquisizione è ferma, insomma il computer è fermo, sto usando solo lo smartphone, cioè faccio il filmato, poi entro su YouTube con un password, nome utente, e c'è un pulsante da premere, carica file, o carica file, comunque c'è, bisogna magari trovarlo con le impostazioni, ma c'è. Tu scegli il file e lo carica, una volta che lo carica lo elabora, lo trasforma in un, cioè lo fa in un formato adatto a YouTube e te lo vedi, è una fesseria da fare tutta lì. Naturalmente io per fare questa operazione preferisco molto usare il computer fisso, che sarebbe poi il portatile. Perché c'è il portatile collegato direttamente a internet, no, con la DSL, eccetera. Lo faccio con questo, quindi. Ho fatto video delle maschere antigas per far vedere a chi ha la passione di queste cose qua. Ho fatto video di radio, per far vedere un ricevitore, l'altro ricevitore, un baracchino con trasverter in 45 metri. Insomma, un paio di video, dai. Giocavo. Sì, vabbè, ma quando ci vediamo me lo fai vedere qua la situazione. Che schifo. Cosa è successo, Marco? Nulla, nulla. Sto ancora ruminando, perché ho una mastico bene, da cominciato la mastico molto bene. E quindi l'incisivo destro è andato a farti friggere. Mannaggia, sto così male senza dente. E vabbè, o la moto mettiamo in sesto o il dente. Io preferisco starmene senza denti e mettermi la moto a posto. Sì, una scena, Marco, una scena, sì. Oh signor, ci sono questi processori che sono usciti adesso dalla Intel, che sono pari a uno di quei processori i3 che lo usano per gaming addirittura, e costano una fesseria, 67 euro mi pare che costa il processore. Ti metti la scheda madre, la RAM, ed è un missile confronto a quello che è tu. Sono due core, sono dual core più i thread. Ma sei processori c'ha in fin dei conti. Minchia. Meglia. Bene. Belli sono, mannaggia. Io invece di comprare quel cacchio di Regio 857, che poi l'ho rivenduto, mi fossi preso un computer assemblato, ma il top, proprio un bel missile. Per esempio nel fisso dal tavolo ci avevo messo sì la scheda di acquisizione video, poi una volta ci avevo messo, sai che cosa? Quando ancora non avevamo la DSL fissa, avevo messo una come spiegartelo, ti ricordi tanti anni fa che per modulare, per navigare col computer c'erano quelle schede larghe, te la dovevi far vedere, ti mando la foto, c'erano una larga fessura per mettere queste schede dove dentro c'era la SIM, no? Della Vodafone. Beh, per usare quella scheda lì avevo messo proprio lo slot adatto e potevo navigare con quella scheda lì che usiamo anche nel computer, nel portatile. Tutta roba adesso, tutta roba pagata a 300 euro, tutto buttato, tutta roba che non serve più, capito? Proprio roba che non serve più. Ormai ADSL, poi 3G, 4G, 5G. Non finirà mai, poi faranno il 6, il 7G, insomma. Il progresso sta avanzando troppo in fretta e devi spendere troppi soldi per starci dietro. Ehi, che poi bastava una di quelle pennine USB dove si ci fa la scheda, la infili lì e navigo ugualmente. Ehi, poi ho avuto quella. Era una pennina della 3 con dentro la schedina della 3 e navigavo con quella col portatile fisso, poi aveva già il wifi, me la portavo al bar, mi guardavo le notizie, mi guardavo il forum CB radiatori. Adesso se tu vai a vedere in giro, no? Gente al bar col portatile, col computer, non ne vedi più, sono tutti con gli smartphone. Ormai lo smartphone, cioè fai di tutto, navighi, guardi video, vedi la posta, fa tutto quello che serve, c'hai tutte le chat, contro chat, WhatsApp, YouTube, va, come si chiama, quello che non piace a me. Hai già capito, dai. Io a mia moglie per regalo gli avevo comprato un tablet da 350 euro che telefoni pure. Sì, come quello che mi hanno fregato. Aveva due schede, in una mettevi quello per navigare in internet e nell'altra mettevi la scheda telefonica. Ma sai cosa aveva di particolare questo tablet? L'unico tablet che aveva l'uscita HDMI, quindi io mi mettevo, collegavo il portatile al televisore, mi guardavo i video o fatti da me o di YouTube sul televisore grande. Per quello mi è dispiaciuto di questo tablet, perché era l'unico, per quello, ormai ce l'hanno tutti, non è vero, l'HDMI ce l'aveva solo quello. Pazienza, pazienza. Adesso Curti si è messa due zampe con due zampe sopra la mia gamba, chissà cosa vu. Gli ho comprato i giubbottini, cazzo che tocco, che è tutto bagliuso, questo. Un altro lente. Questa insalata contiene anche rape rosse, sono molto buone. Ti piacciono le rape rosse? Ehi, aia, sono buone. Che poi fai la pipì rossa pure. Oh signor, cazzo. Siamo arrivati a L9 addirittura come processore, che deve essere una figata pazzesca, ma li usano per gioco quelli, sono troppo potenti. Ma adesso per questi computer potenti che alimentatore ci vuole? Da quanti watt? E ci sono quelli che hanno 1000 watt, 750, 850, 650. E poi il brutto lo sai cos'è? Che devi avere il case nuovo, quei nuovi che sono usciti, non ce l'hanno più sopra, ce l'hanno sotto l'alimentatore. E costano una barca di soldi, maledizione. Saranno anche belli come case, però ci vuole l'alimentatore sotto, e c'hai i fili lunghi, devi passare dietro per non avere i fili davanti, sono delle figate. Oh, caspita, 1000 watt di alimentatore, il mio era 300-400 watt di quei computer fissi, massimo 500, ma nemmeno, caspita, roba di mostri, se io avessi un lavoro, cazzo, sarei subito computer, mi sputterei tutti i soldi, tanto abito da mamma, eh? Famiglia non ne ho, moglie non ne ho, figli non ne ho. Ehi, infatti, ma io, guarda, io mi prenderò un G4560 che è uguale all'I3. Che l'I3 lo usano per giocare, anche quello mi ci giochi, basta avere una bella scheda video, ma solo la scheda video vuoi chiamare la cadirina, ma come me la metto nel seguito, perché cattogliano RAM sono di DR4, dimmi tu, ma fa lo stesso, che se voglio spugno, proprio quello è lo stesso, lo metto nella stessa scheda madre, mi chiamo lo stesso socket, ma che sono gli M, ti chiami in quello socket, ecco perché ti sto dicendo di mettere di assemblarti un fisso, perché ci puoi mettere le mani sopra. Sopra e dentro anche. No, ti dicevo una frase, abbiamo parlato in due. Tu mi parli di processore interno, ma gli AMD si sono adeguati col tempo, sì. Ma non è la stessa cosa della Intel, è più veloce l'Intel, ci giochi meglio. Hanno più prestazioni, già ci sono degli AMD Ryzen si chiamano, e hanno un 12 processore qua, dei mostri. Per esempio in via Bucari spesso proponevano, io ho detto grosso modo cosa volevo, mi proponevano spesso i processori AMD. Io ho iniziato il primo computer nel 2000, che io ricordi aveva un processore, aspetta cos'era, un AMD 4K3 mi pare, 450K3, può essere 450K3 dell'AMD. Può essere, io c'avevo un Phenom Black Edition AMD che era un mostro, bellissimo, dual core. Io mi ricordo che il primo processore, quello del primo computer avevo, si è bruciato, lo sai, bruciato, la ventola non girava più, io non me ne ero accorto. A un certo punto vedo lo schermo impazzire, vedevo numeri, lettere, tutto così per un attimo, e poi morto, morto, proprio il processore era cotto, si sentiva l'odore di bruciato. Figurati, Sì, a rischio c'hanno delle ventole spaventose, questi qui, e non si sentono neanche. Quindi è più facile abbruciarli. Perché non sono per niente rumorosi. Comunque hai ragione, l'assemblato è sempre più versatile, è più facile da aggiornare, è più facile da modificare, aggiungere schede, tipo acquisizione video, vedi? È vero, il portatile non ci puoi fare nulla dentro, quello è vero, però ormai mi ci sono quasi abituato al portatile, quasi però, non del tutto. Oh, non servono, poi scaldano, se poco a poco non passa l'aria si grigiano, i gas, questi portatili, mamma mia, non li ho mai potuti vendere. Mai, domani andiamo a prendere i figli. Aspetta. Ecco. Domani. Dopo pranzo. Dopo pranzo, andiamo. Io devo mandarlo a casa. Vabbè. Ma un assemblato a parità di componenti, no? Cioè tu dici, il portatile c'ha RAM così, scheda video così, se tu lo fai assemblato costa più di meno o pari? Guarda, l'assemblato ci guadagni sempre, perché costa di meno la roba, poi se te la fai tu, che non lo porti dal tecnico, io se posso fare una configurazione come quella che sto facendo io non mi costa meno di 600 euro. Ma un computer già con le palle, sì. E allora, no, non un giocattolo, non si sta parlando di giocattoli, già questo che ho io qua, se non avesse la scheda madre così, che io me lo voglio assemblare un altro, in modo che se mi si brucia se la piglia in culo. Mi cercherò, vuol dire, poi qua dietro dall'altra parte, siccome questo qui non è assemblato, questo che c'ho io, non si può aprire il pannello dietro perché è bloccato dai rivetti, mi toccherebbe prendere il trapano e aprirlo. Quando avrò l'altro me lo farò, gli cambierò la scheda madre e me lo ricostruisco, perché il processore è buono, al limite gli busco una scheda madre e ci schiaffo sempre quel processore. È un dual core questo che ho io, un E5002 della Intel, dual core, a 2500 GB. Ah, i rivetti ci hanno messo, che bastardi! Quando vieni qua ti lo posso vedere, e non credi ai tuoi occhi. Cazzo diavolo! Ascolta, come marche di schede madri, cosa mi dici? Fammi i nomi di marche. Io mi ricordo che una mia era la MSI, quella di quello del tavolo, e l'altra non me la ricordo. E l'MSI è buona come scheda madre, poi c'è Gigabyte, ce ne sono un sacco. C'è Asrock, come quella di mia moglie. Eia, eia. Immagini, se vado a farmi un assemblato, no? Io vabbè, da solo non lo faccio, andrei sempre in via buca. Te immagini, gli chiedo di mettermi il floppy e quindi mi ridono in faccia. Non esiste più neanche il buco del floppy nei nuovi PC. Se non mettono manco il lettore CD, perché usano tutte le pennine, siamo arrivati a 33. Ah, non mettono nemmeno il lettore CD, nemmeno il masterizzatore. Se uno deve, ci compra in edicola dei programmi, sai, o qualsiasi cosa, enciclopedie, in CD, come fa? Se la prende in nome di vostra mamma, perché se non hai il lettore io, infatti mi cercherò un case che abbia il lettore, se no non c'è... Cosa te ne fai? Se hai dei programmi in CD non puoi fare niente. C'ho Windows 10 nella pennina e anche Windows 7 e sono veloci i miei piattandoli. Eia, sì, comunque non trovo giusto che non ci sia il masterizzatore, perché io molti CD masterizzati, no, con foto vecchie, e cioè non c'ho il lettore CD o anche il masterizzatore, cosa me ne faccio di un computer che non mi legge manco i dischi? E se trovo un case col floppy mi faccio mettere anche il floppy. Te l'ho detto, ce l'ho già pronto, sigillato nella confezione originale il floppy. E dice, no, perché, perché c'è un bel floppy, a travasarli tutti ci vuole un bel tempo, allora me li leggo al volo. Infatti io lo voglio col masterizzatore, ne ho un casino qua di masterizzatori e anche lettori, perché se ho dei programmi, infatti perché me lo prendo tipo case, per quel motivo, perché in certi non c'è neanche la finestrella dove farlo entrare il masterizzatore, come fai? Ma anche perché uno può volere anche un lettore Blu-ray, ecco, uno ci può mettere il lettore Blu-ray con masterizzatore Blu-ray, è giusto che ci sia l'alfettoia, beh uno naturalmente quando ce lo sembra si compra tutto che sia pronto a mettere Blu-ray, quello che è, CD, insomma, DVD. Ho notato che in via Bucari mi davano sempre masterizzatori Philips, però ti dirò che CD audio non c'è un cacchio da fare, venivano male, lo sai, sì vengono bene i CD DAT, i DVD, ma i CD audio non lo so perché, non venivano bene, ho provato in tutti i modi, a velocità alta, bassa, aumentando il buffer, niente. Samsung OLG masterizzatore? Allora, non lo si deve vedere imbattato. No, lì roba di computer, Claudio. Roba di computer. Masterizzatore, poi Natalina, non so, a me dicevano che quei masterizzatori buoni erano i Plexor, quella roba lì. Proprio masterizzatori da battaglia, amico, per fare centinaia di coppie. I Maxtor, stai dicendo. No, ricordo questa marca, Plextor proprio. Maxtor la conosco come marca. E anche quelli vanno. Tutti di così adesso. Se te ne serve uno non c'è problema. Lo modifichiamo tutti su computer. Mi voglio fare il computer board. Come voi lo facciamo? Il computer come lui si vuole fare sporco. Addirittura ci sono per il raffreddamento i radiatori come la macchina a liquido. Mai visti li hai, Marco, per il computer? Sì, sì, io l'ho visti su internet raffreddati a liquido, perché dice che scalda talmente tanto, addirittura li volevano fare raffreddati ad azoto liquido. Se hai una scheda video grossa, perché ci vogliono gli alimentatori grossi? Perché c'hanno l'alimentazione anche per la scheda video. Se sono alimentate scaldano come delle dannate, c'hanno anche le pentole loro, figurati. Bella roba, però te l'ho detto, i soldi, se io te l'ho detto anziché quel cacchio di quadribanda all'epoca avessi preso il computer. Oh, ti dirò, io mi trovo bene con XP, ho programmi di tutti i tipi, ho anche programmi per criptare tutto, foto, video, scritte, documenti di testo, tutto, criptare, non li puoi decriptare, mi pare c'ha il sistema di criptatura AES, quello l'ultimo uscito me. Sì, già, hai limite, io porto un a casa. Se parte il computer che non c'è, lo formattiamo e mettiamo il sistema operativo nuovo, come che c'è il computer nuovo. Ma tu quale stai dicendo? Quello che è a terra fuori in corridoio o quello sul tavolo? Cerchiamo di aggiustare quello che c'è sul tavolo, no? Ehi, però quello sul tavolo, l'hard disk funziona e la scheda video, almeno come credo io che è partita. Togliamo la scheda video e la proviamo. Non ci costa niente, no? Se è PCI Express non c'è problema. La togliamo e gli mettiamo l'altra. Prova poi tu a collegarlo il monitor nella scheda video della scheda madre. Non c'è, l'unica uscita video è quella della scheda video. Come non c'è? Nella scheda madre ci deve essere la scheda audio, la scheda video ci deve essere, e bisogna che lo veda io, va. Comunque ce l'ho anche una scheda video dentro il mio computer, PCI Express. Guarda che la roba che ho io non è PCI Express, mi è ancora rivista, ci avrà il bus a 333 MHz, boh. Mamma mia. Storia antica, caro Claudio, museo dei computer. Anzi, ti dirò di più Natale, che io non so se la RAM del computer è in corridoio o va bene su quello sul tavolo. Ecco perché volevo andare in via Bucari. Almeno loro lo sanno, mi trovano i driver loro e non mi devo rompere le palle io. Sì, ma ti pigliano un sacco di soldi e poi è un residuato bellico quel computer. Ti conviene aspettare quando c'è i soldi e lo assembliamo. Ti lasci il case e l'alimentatore, tu lo lasci, noi lo galemmo e lo assembliamo noi. Se no è un casotto. Perché sei così vecchia come mi sta dicendo lui, che non ha gli slot PCI Express della scheda madre, che è un macello. No, no, io questo PCI Express me lo ricordo. Guarda, ti dico l'anno, uno è stato fatto nel 2003 e uno è stato fatto nel 2004. Quindi fate l'ugonto, ci sono passati 13 anni, più o meno, tra l'uno e l'altro, 13 o 14 anni, o 12 anni insomma, è un bel. Sì, infatti, era entrato coso, come si chiama, bah. Quello che sta lì a Canica, quello lì è nel settore proprio, quello lo sa. È strano che non sia l'ascolto, già fra ci sei, vai, è andato a mangiare, hai già Franco già preparato. Eia, al limite dovrei avere la scatola della scheda madre, lì ci sono tutti i dati, tipo bus che ricordi a 333. Del cagamento. Ma lei ti sono, sempre soldi servono. Soldi. E vabbè. Poi già sai Natali che certi assemblati sono opere d'arte, cioè li mettono luci, li mettono le case trasparenti, ma lì è proprio da fissarsi, dai. No, è che sono da gioco quelli. Quelli potenti così che hanno tutte quelle cose lì, sono da gioco. Quelli consumano un bel pagosà, finta la scheda video alimentata. Ci vuole un alimentatore solo per la scheda video, così è. E te lo sto dicendo che hanno alimentatori secondo che se solo la scheda video occupa due slot, occupa, che sono larghe con le ventole, tu le devi vedere. Eia. Poi in quello sul tavolo c'è un bel polvere dentro, c'è proprio la lanetta, non lo so perché, deve essere entrata dai forellini o dalla ventola, non lo so, è tutta sporca e ci vuole, è che non so dov'è, mannaggia, l'aspirapolverino da macchina mi serve, mi fa levare tutta quella lumenta. E oppure un compressore all'aria. C'era Danilo l'altro giorno, Marco, comprata io per la macchina. L'aspirapolvere per macchina? Sì, quella da coccia di sigari. Eia, io ne avevo preso uno da Osciano economico, ma non serve a niente, a malapena riesce a sollevare le briciole. La polvere sì, te la solleva perché è leggera. E per pulire quel computer, se no uso un pennellino. Basta che non sia statico, né, che non faccia roba statica, e li pulisco le schede. Bene. meglio, e mi sa che avete tutti i computer più aggiornati, io sono l'unico che è rimasto indietro, che è voluto rimanere indietro anzi, perché qui lo sai che per esempio molti programmi per programmare i Pao Pao non funzionano su Windows 10, capito? Bisogna usare XP. XP è perfetto per quell'uso. Riesce a programmare quasi tutti i portatili. Il mio è nuovo, da Lenovo il mio. Però non capisco niente, tu che hai detto che ho una schegge. È un bel potente, però io non capisco nulla. E io tanto meno, io me lo facevo fare in via Bucare, ma poi lo usavo e basta, non me li costruisco. Natalino è ferrato, mi sa tutto, sa, se lo sa costruire lui, basta comprare i pezzi, case, scheda madre, se lo piazza tutto lui, se lo configura lui. E io ci vuole pazienza, io pazienza non ne avevo e quindi me lo facevo fare. E io avevo fatto un costes. Perché Natalino è con qua, vuole per quello. Così è Natalino. A parole macchia dei giorni. Cuocuomole sì, per quello sai fare queste cose. Tutti i cuocuomole sanno fare queste cose. Io e sai com'è, ci vogliono andare a trovare i driver, bisogna rompersi le palle, soprattutto se roba vecchia. Comunque, qua lo dico, qua lo nego, io dovrei avere, ovviamente, le scatolette delle schede video col disco di installazione dei driver. Sicuramente c'è, magari non è il più aggiornato, ma c'è. E devo salire sull'armadio con la scala e tirare giù un bel po' di roba e vedere cosa si può riutilizzare. Sì, ok, poi casomai Natalino mi dice qualcosa in più, che non so. E vediamo, da due ne facciamo uno, capito, di computer fisso. Certo, un po' antiquato, ma a me. Guarda, basta che riesca a navigare, anche se è lento, basta che riesca a navigare, a guardare video di YouTube, a ricevere la posta. Così, no, io non lo uso per giocare, capito? Non ho mai giocato col computer. C'è gente che se lo compra solo per giocare. Io invece lo usavo per cose più un po' più creative, capito? Se tu te lo tratta, come te lo tratto io, vedrai che non parla per nessuno. Eia. Oh, Natalì, io mi ricordo, pensa che io la tastiera originale del primo computer del 2000, la tastiera, proprio la tastiera, quelle color beige. Invece un amico, tale Marcello, ne ha cambiato un bel, ogni anno cambia la tastiera, ma o le sbasciava lui, ci sbatteva sopra, dalla rabbia, gli duravano poco, no? Io, caspita, ce l'ho ancora la tastiera originale, poi ne avevo anche una nera, però chissà perché, ma io mi trovo meglio con la tastiera bianca o beige con le scritte nere, con le... Invece quella nera con le scritte bianche non lo so, non mi ci trovo. Poi adesso sono tutte queste cavolo di tastiere. Prima c'erano quelle con l'attacco 3-2 dello spinocchio. Ah, così è. Quindi deve avere 10.000 prese USB per il mouse, per la tastiera, così è. E allora, addirittura io c'ho il mouse senza fili. Ci metti una chiavetta, ti danno il mouse e chiama senza fili. Sì, tipico. E vabbè, sono rimasto indietro, ma... Vedremo cosa ne uscirà. Io ne ho due di quei mouse e tafili di Natale, ma non mi trovo, grazie, boh, in verità mi ho vinto uno filo. Sì, ma poi non cambia nulla in teoria, no? Cioè, come muovi uno, muovi l'altro. Natalizia, te ne dico una, se riuscivano ad hackerarti anche il mouse, o addirittura riuscivano a captare quello che tu... No, vabbè. vabbè, il mouse, più che per caso la tastiera senza fili, riuscivano a captare quello che tu battevi sulla tastiera, gli hacker, me. Se si mettono sotto casa riescono a fare cose strane, riescono a bloccarti il mouse senza fili, e beh, di roba si può fare. Non c'è bisogno che si mettano sotto casa, anche da qua posso leggere tutto quello che scrivi tu. Basta che ti invia un Trojan, se tu lo apri sei fottito. Oh, l'Atari, Atari. Oh, sì. Ho detto, ma ti si blocca te quello senza fili il mouse? Il mio mi si blocca dopo un po', perché? Perché si scarica la batteria. Oh, si blocca da solo, dopo un pochettino non mi fa più camminare. Allora, vado in alto, clicco col tasto destro e torno a ripartire. Non è che va a lavoro temporizzatorio. No, è così. Devi schiacciare un tasto e si riavvia il mouse. Mentre invece quello con il filo no, perché? Perché è alimentato diretto dal computer. E allora? Quelli lì si bloccano, addirittura nel mio c'è il tasto pure per spegnerlo. Per non consumarti la batteria subito, sennò è poco succiari. No, ecco, per quello. Vabbè, no, non capivo perché si bloccava. No, tu schiacci il tasto del mouse e riparte. Sì, schiacciando il tasto del mouse, il destro, riparte, capito? Poi dopo un pochettino si blocca di nuovo. Pensavo che era un difetto, invece è così. Guarda, io preferisco quello con il filo. Sì, è che io preferisco quello con il filo, però è più comodo quello senza fili, capito? Beh, sì, vabbè Claudio, tanto dove te lo porti? Cioè non è che te ne vai dall'altra parte della stanza, ce l'hai lì. No, perché a me queste cose wifi, cose, segnali che si incrociano, puoi fare uno con l'altro, ci possono essere interferenze, non lo sai. Meglio il filo per me, poi. C'è anche il kit, tastiera e mouse, senza. Anche la tastiera. Ehi, cattuvirà. Non so da quanti anni ce l'ha. C'è la tastiera e il mouse, senza. Comoda. Natalie. Oh, a proposito di Trojan. Il miglior Trojan di tutti era Sub-7. Ma lo sai quante vite avevo fatto con quello? Mamma mia! Mi ricordo Back Orifice, che però era riga di comando. Sub-7, NetSphere, NetBus, poi c'era, aspetta cosa c'era? Come si chiama? Phoenix 2, era italiano quel Trojan, Phoenix 2, cosa non c'era? Optics Pro, e poi c'era quell'altro ancora, li ho avuti quasi tutti, e li ho usati quasi tutti. Che bastardo. Vedevo quello che scriveva sulla tastiera, vedevo il sito che apriva, vedevo lo schermo suo, tutto. I computer diventavano le mie schiave. Lo so. Naturalmente il Trojan loro li chiamavano programmi di amministrazione remota, però era roba da hacker, perché esistono i programmi di amministrazione remota, tipo ce n'era uno fatto proprio dalla, insomma, per comandare i computer a distanza all'interno dell'azienda, no? Ma quelli erano proprio Trojan, venivano riconosciuti come Trojan. Però guarda, Sub-7 era il non plus ultra, tutte le versioni ha avuto dalla 1 fino alla 2.2, mi pare, fino alla definitiva, ma era spettacolare quello. Ma io c'ho un antivirus addirittura che non mi fa passare un cazzo, nulla, la minima cosa mi rompe, anche programmi che devo usare, se non glielo dico io di entrare, no, nulla, non c'è niente da fare, mi blocca, cavolo. Sì, adesso sì, ma mi ricordo che nel 2000 era pieno zeppo di gente che era senza antivirus, oppure aveva antivirus mai aggiornati, mai aggiornati e quindi poi addirittura c'era gente che condivideva il BIOS, cos'era? La porta 139, mi pare, Net BIOS come si chiama, che potevi passare da lì, mi pare. Adesso avevo studiato su quel libro, ma non me lo ricordo bene, potevi passare da lì senza Trojan. Prova da matti. Sì, infatti, sfruttano i bug del sistema e via, capito. Quella roba pericolosa, ma la sorte. Qual è il virus più potente? L'AIDS. Eh sì. C'era un amico mio che non solo che si rubava la wifi con certe antenne che ci cuci le uova, è entrato dentro il computer di questa azienda, anche i conti bancari li ha coperti. Lascia perdere, Natali, non parliamo di queste cose. Ma lì c'è un egrato a vero. No, comunque Claudio, a parte, ormai non hanno più senso i virus, perché tutti hanno il firewall, tutti hanno l'antivirus aggiornato, i sistemi stessi sono più protetti, ma Windows 98 era un colabrodo, Windows 98 era una meretrice, entravi da qualsiasi buco. Era un colabrodo quel sistema, poi dipende come lo configuri tu. Mi ricordo che dal 2000, 2002, 2003 anche, era l'età dell'oro, l'età dell'oro. Mamma di turchi, mamma di turchi. Bene, bene, bene. Bei tempi però, però era l'età dell'oro. Gian Natalino ci ha lasciato qualcosa, no? Vecchia volpe. Sì, ho iniziato col Commodore 64, figurati. Usava solo per giocare, per imparare, non imparava nulla, giocava e boom, pigliava la giochi in edicola. Ti ricordi che i giochi erano, i programmi erano in audiocassetta, una cosa mai, uno schifo mai visto. Sì, io me ricordo, ma io lo usavo per fare il packet, capito? Allora avevamo il packet anche, packet a PRS, e quella roba lì, tanti tanti anni fa. Ho iniziato con quello a imparare così, però è una cosa che non mi è mai piaciuta sinceramente. Va bene, dai, io vi saluto, passo dall'altra parte, mangiare un boccone e poi me ne vado a letto, mi fa troppo male la gola, se ho bacio un cazzo allucinante, se non c'ho altra febbre. Ci sentiamo domani ragazzi, buonanotte a tutti. Buonanotte Marco, saluta Claudio che ti devo dire una cosa. Mira, dai, che c'è Gianfranco, mi fa la domanda che hai detto poco fa. Ciao Gianfranco, sì, non ho voglia, non sto bene, non ce la faccio stare qua, vado a sdraiarmi un po' di fa. Riprendi Gianfranco, c'è Natalino, stava parlando di computer, non ho capito, forse ti devo chiedere qualcosa. Sì, buonasera, sono passato solo per dire che c'ero, poi sto facendo due saldature, stavo seguendo così genericamente. Dunque, buonasera. Ciao Gianfra. No, è perché Marco c'ha un computer di quelli anteguerra. Di che anno è Marco? Allora Gianfra, buonasera, ciao Claudio, dai, buona. Peraltro non mi ero reso conto che erano le 20 e 23 già, caspita, e fa poco più anch'io. Ciao Claudio, riguardati, mettiti sciarpe, sei sci. Ok, buonanotte, buon tutto. Ciao Gianfranco, sì, Natalino mi ha chiesto se io avevo una scheda madre di quelle PCI Express in quei computer. E io gli ho detto che uno del 2003, computer fisso, uno del 2004 e credo che abbia il vecchio bus di velocità 333 MHz, insomma la velocità di interconnessione delle periferiche, può essere. Ma diciamo le velocità possono anche essere più o meno uguali, anche se di norma dovrebbero essere superiori. Il problema è che hanno cambiato un po' di standard, capito? Quindi noterai anche per le schede video che sono più corte rispetto a quelle del passato. E ovviamente di norma anche in modo più performato per essere video. Poi le PCI, ci sono le PCS, ci sono le mini PCI, insomma dipende dalla PC, dalla casa madre che ti scappa. E via. Sì, sì, però quello che credo di ricordare è quello, Antari. Anzi, all'epoca si parlava di velocità di bus di 800 MHz per i più performanti all'epoca. Comunque sì, è abbastanza obsoleto. Sì, devo togliere la scheda video di uno e metterla nell'altro. E se li trovo, trovare i driver per farlo funzionare. Ah, comunque Nathalie, c'era un altro programmino di quelli là. DTF, che vuol dire ladro, ti indicava via email appena la tua vittima entrava online e ti diceva il numero IP della tua vittima, il tuo computer schiavo, e potevi entrarci, ti segnalava appena entrava, capito? Appena entrava in rete, su internet. Mamma mia che roba. Bene, dimmi Nathalie, dimmi cosa mi dovevi dire. È che se non volevi avere problemi di virus e cosa, non devi usare Windows. Lo so, però Linux non l'ho mai trattato, ho usato solo versioni lanciate, proprio che è da usare sulla RAM, diciamo, ma non... Nathalie, o mi faccio in futuro, quando avrò solo due partizioni, una con Windows e una con Linux, e dovrei imparare a zero da usarlo, però. Da zero, mi dovrei prendere un libretto, un libro che ne parli. Però non mi interessa presso Linux, no, assolutamente. Mi ho le scatole piene di imparare roba di computer. Parevo da rientrare, eh? Eri a fare il turno? No, ero impegnato, si è venuta un'amica a provarmi, da... e adesso se n'è andata e sono entrata. Un'amica? Oi! Ciucciù? Vabbè, non si può dire. Vecchia volpe. Eia. Quindi Nathalie, dove eravamo arrivati? Te l'ho detto, io quando prenderò, voglio il floppy e non mi interessa, anche se è antiquato, voglio il lettore Blu-ray e il floppy anche. E il masterizzatore Blu-ray ovviamente, tutt'uno. E il floppy a parte. Così mi leggo quei 10.000 floppy singoli che ho. Se no, te l'ho detto, a riversarli tutti, mi ci vogliono giorni e giorni. Almeno passi il tempo. Mamma mia, sei diventato matto io. A me non riesci a leggerti. È vero, a me se non concesso che riesca a leggerti, anche i floppy. Perché va bene, quello di adesso me li legge, c'è il lettore. Per il portatile ho un lettore esterno, un lettore floppy esterno, lo colleghi alla USB ed è fatta. Ci sono programmi, programmini, testo, foto, un po' di tutto. Vabbè, foto no, perché ce ne stava mezza di foto già da allora. Bene. Eia, no, dicevo Gianfra, se io invece di comprare quel cacchio di FT857, no? Sai quanto costa, no? Avessi investito i soldi per un bel assemblato, adesso sarei più felice, molto più felice. Sì, buonasera anche a Gianni. Ma la questione di quella è un questione di gusto. Per quello che riguarda il gruppo ti posso dire che utilizza una formattazione molto vecchia oramai, dovresti usare un computer vecchio in parole povere per leggere, perché secondo il sistema operativo che ti installi neanche adotto di legge, perché sono talmente poco soletti che oramai studia da museo. Quindi quelli li considerano persi, anche perché possono girare solo il sistema operativo dall'epoca. Basta solo che sia 64 bit, sono già molti dei punti, ma anche sui 32, anche sui 7, sui Vista, non esistono. Ma i floppy di solito come si formattavano in FAT? Ma era un fatto proprio di prima generazione, poi niente, i vecchi non li può usare perché sono in 3 secchine di individuo, perché appena va a in rete tipo Stiga, oramai in quasi tutti i mesi praticamente vietato, appena attaccato si inzuppa di tutto di più. Figurati che all'epoca, parlando di 10 anni fa, quando c'era Windows 2000, ho legato la rete, appena messo per un secondo immediatamente entravano queste 4 video che erano stanziali per i figurati. E il 98 allora era peggio, il 98 era veramente terrificante, a parte i blocchi che aveva continui, schermate blu, bile sputata, eccetera. E poi i Trojan che c'erano per quel sistema, mamma mia, credo di averli tutti, c'erano tutti archiviati, li ho messi tutti in un disco per usarlo, per testare gli antivirus, a me praticamente. Vabbè, sì, io attualmente ho un computer portatile del 2005 con XP funzionante, seppur lento nella navigazione, vabbè. Poi ho un computer da tavolo a cui manca la scheda video, un assemblato, sempre con XP. Se davvero riesco a sostituirla con una vecchia scheda, è tanto di guadagnato, perché ci sono tanti di quei programmi piratati e non che mi dispiacerebbe perdere. Comunque hai ragione, DVD non ne ho più masterizzato da secoli, perché giustamente le chiavette da 16, da 32 sono molto più capienti, molto più veloci, poi niente parti in movimento, niente ottiche che si sporcano o che si starano, è vero, è vero. Mi pare che mamma è l'unica che mi chiede ancora i CD audio vuole, capito? Ho detto, ma ormai ci sono le chiavette MP3, cosa CD audio? E poi non li fa bene, non so perché tutti i masterizzatori che ho avuto facevano bene i CD di dati, CD, i DVD anche, proprio video, duplicati. Ma il CD audio veniva sempre male, rare volte è venuto bene, ho provato a tutte le velocità, aumentando il buffer, tutto quello che vuoi, niente da fare. Forse ci vogliono masterizzatori particolari, più costosi, più precisi, non lo so, io li dicevo a Natalino, i famosi Black Store, non so se esistono nemmeno più, i miei masterizzatori erano Philips, non lo so a che livello qua, qualitativo fossero, ma robetta. No, ma quella è sempre la testina, perché magari tu vedi qualche colpo, eccetera, le teste ottiche è tremenda, si può affettare, lo è difettoso proprio, se è stato spiato, ma di quei computer, guarda, con un XP, ne ho visto buttati, ma proprio buttati, a tonnellate, funzionanti, perché proprio non si possono più usare, capito? Non perché non funzionino, ma proprio perché non si possono attaccare alla rete, quindi non li voleva nessuno, hanno stato toccato, tutto sopra, tutto qui. Sarò io, sono rimasto XP, che poi lo sto usando più che altro per musica, film, serie TV, per scaricarle, guardarmele e poi cancellarle, perché sennò non mi bastano 10 hard disk, capito? Se voglio vedere un film vecchio che non danno mai, se voglio ascoltare un disco di musica, già hai capito, dai. Bene, Natali, io quasi quasi chiudo, c'è un bel freddo qua, un bel, comincio a migliorare, come dice il nonno, come diceva il nonno, buon'anima. Casomai comincio a pulire il computer, quello del tavolo, un pennellino userò, non lo so, tanto è spento da secoli, è spento da tanto, non credo di aver problemi. Comincerò a togliere un po' di documentazione da sopra l'armadio, dovrei avere i CD in installazione delle schede video, informazioni sulle schede madre, un po' di tutto, di solito quel materiale non lo buttavo mai, lo tenevo sempre. E poi vediamo cosa ne esce, ok? Ok. che Gianni purtroppo io sto andando via che sono a Marco in radio, dai. Ci sentiamo, ciao Natalino, Gianfranco e Gianni, buonanotte a tutti, dai. E anche perché c'è un freddo proibitivo qua, ciao. Ciao Marco. Apri il case che ci sarà un bel polvere all'interno, nella ventola, con le roba lì sarà un bel polvere. Quello lì devi pulire le robe. E via. Ma non solo già, anche sulle schede, in fondo è tutto pieno di polvere, di insetti, ma da dove entrano? Dei buchi o dalla ventola stessa dell'alimentatore? È la ventola che praticamente si riporta all'interno, come gira si riporta all'interno. E vabbè, magari si posano e si ritira, come gira. Ma io guarda, lo pulisco sempre e sempre ce n'è questa polvere, come succede negli alimentatori, la stessa cosa. Eppure sai, la ventola dell'alimentatore butta fuori l'aria, non è che la porta dentro, la butta fuori. E però vabbè, fa quell'effetto lì. Cioè, la ventola butta fuori ma dei buchini entra dentro. Infatti quando l'avano vista via bocca avevano detto, ma che sto computer, ragazzi, è un mondezzaio. Amicina, e vabbè dicono sempre così, anche quello di Marco quando l'ha portato, mio figlio era nuovo nuovo, c'era un virus, l'altro dice, ma qua c'è un sacco di mondezza, sembra la discarica. Eia, vabbè, una pulitina sommaria gliela do, ma sommaria, non so nemmeno se la potrò più rimettere in funzione. Comunque Natalì, mi è sembrato strano che una scheda MSI di quegli anni non avesse l'uscita video sua, lo sai, mi è sembrato strano, eppure io ho guardato dietro, e l'unica uscita video mi sembra proprio quella della scheda video esterna, cioè della scheda video aggiuntiva, no? Oh, è strano, dovrebbero averle, anche le uscite audio deve averle. Quelle sì, quelle le ho viste, infatti mi confondevo sempre, mi confondevo sempre. Vabbè dai, vi do un'occhiata. Va bene, buonasera a tutti, dai. Ciao a tutti, ciao. Ehi, ciao Marco, dai, ciao Natalino, c'è anche Gianfranco che sta andando giù a portare il camera. Vi stavo ascoltando poco fa, ma non potevo entrare. Ok, andrà bene Nera, ciao Gianni, ciao Gianfranco, QRT per me, alle prossime. Ok, ciao a tutti allora, buona serata, alle prossime.